想把那段远距离piano convinto a credere all'improvviso cambi te con il tuo plotone maracerai c'eranno dei tuoi guai assumi nuove identità dovrai scappare prima o poi perché tu lo vuoi, se lo vuoi adesso lo vuoi per te hai deciso per tutti ma non vuoi per te quando fai valere il comando chiediti se non sei stato forse sardato scivolare dentro me hai dimenticato che è una possibilità astenersi dai mutamenti e scegliere un'identità e ancora parli e parlerai crederti sbatti la porta e te ne vai col tuo plotone marcerai perché tu lo vuoi, se lo vuoi adesso lo vuoi per te hai deciso per tutti ma non vuoi per te quando fai valere il comando chiediti se non sei stato forse sardato scivolare dentro me hai dimenticato che è una possibilità astenersi dai mutamenti e scegliere un'identità tu lo vuoi, se lo vuoi adesso lo vuoi per te hai deciso per tutti ma non vuoi per te